People, questo è Jolly Roger. Buonasera a tutti. Oggi vi presento un nostro caro amico. Si chiama Luca. Ciao, buonasera. È un nostro amico che mi ha imparato a fare dei graffiti. Io con lui ho fatto dei totem per il quartiere Tufello e Vigne Nuove e abbiamo fatto questo lab che io adesso ho avuto una nuova inizia per fare le magliette, insomma. Diciamo che questo laboratorio nasce da molto prima che tu conoscessi Luca. E poi ci racconterai piano piano che cosa avete fatto con Luca. Ok. È iniziata la terza edizione di Bada Festival. Ci racconti com'è nata l'idea? Dunque, l'idea nasce appunto dal fatto che io insieme ad altre mie amiche facevamo questo tipo di... partecipavamo ad altri festival come questo, dalla quale appunto abbiamo un po' capito come fare una cosa che ci piaceva veramente. E di conseguenza ci siamo ritrovati 5-6 persone, per lo più all'atelier della Puzzle, che sarebbe quello spazio sotto che c'è presente dove facciamo i laboratori. E niente, appunto abbiamo dato vita a questa nuova entità di fumetti, fanzine, appunto che sono riviste, autoprodotte e stampe d'arte di vario tipo, facendo un momento che fosse d'incontro con un sacco di altri persone da tutta Italia che si occupano della stessa roba, delle stesse cose. Ok. Bada vi ha dato modo di conoscere artisti e colleghi. Raccontaci chi e cosa ti ha colpito di più. Dunque, quello che ci ha sempre colpito di più di questo festival è la capacità, diciamo, aggregativa che trascina con sé, che porta pure, c'ha sempre un grosso carico, diciamo, di contenuto, grazie alla maggior parte cioè alla grande presenza di autoproduzioni da tutta Italia che, appunto, raccontano quello che la gente vive spesso, quindi c'è anche avere una foto di quello che tutte le persone come che noi riconosciamo amiche in Italia vivono il nostro tempo, vivono la nostra cultura, eccetera, eccetera. Quindi il momento di avere un momento di totale aggregazione e di contatto con tutte queste persone dal resto d'Italia, anche non solo, cioè spesso anche già dalla prima edizione di Bada. Grazie appunto a questo tipo di festival che già era una cosa molto presente, cioè appunto noi siamo soltanto l'ultimo di una lunga serie di festival, poi ne sono nati dopo, ne nasceranno altri, cioè è bene così. E quindi niente, evviva. Che cosa è che ti fa credere in Bada? E dunque, che cos'è che mi fa credere in Bada? Mi fa credere in Bada il fatto che appunto ci abbiamo un po' trapiantato in un terreno che questa cosa un po' non la conosceva e si è comunque, nonostante tutto, rivelato fertile anche a partire dal fatto che tanti di noi del collettivo, tante di noi del collettivo non avevano mai approcciato questo mondo prima, invece adesso sono insieme a noi che già ce ne occupavamo invece da anni, carichi allo stesso modo. E quindi cioè, insieme anche appunto dentro a Puzzle eccetera, tutti gli spazi in cui viviamo adesso ci mettiamo anche un'attenzione in più da questo punto di vista anche del come sono apprezzabili gli strumenti che uno usa per arrivare a certi fini e come si possano potenziare in una maniera diciamo coinvolgente e divertente che senza farlo mai risulta al lavoro alla fine dei conti. Senza mettere magari in secondo piano facendo un discorso, che ne so, economico, cioè, o perlomeno, voglio dire, senza voler mettere in secondo piano un discorso economico, ma questo parliamo di autoproduzione quando parliamo di cose che verrebbero fatte a prescindere dal contesto economico di partenza. Che rientri qualcosa, quello serve perché per fare le cose poi, Certo, cioè, è utile che quello. serva. Esatto, però tipo, questo è un esempio di tutta una serie di cose che vengono fatte anche se poi non vanno bene. Certo, sì, uno prova e via. Che cos'è Puzzle? E dunque, Puzzle è un diciamo, è nato come centro sociale occupato, uno studentato occupato per la precisione, perché dopo il periodo dell'onda, che fu un movimento di protesta nato insomma tra il 2010 e il 2013, così, che coinvolse un sacco di persone, per lo più studenti, ma anche tipo tutto il mondo della scuola, eccetera, eccetera, perché fu una serie di riforme attaccavano il mondo della scuola, con dei tagli pesantissimi su tutto il welfare state e la scuola. E appunto, welfare state, che vuol dire lo stato del benessere, cioè nel senso è quanto riteniamo di qualità la nostra vita, no? Anche al di là delle semplici questioni materiali, tipo tetto sotto la testa, cibo nella pancia, eccetera, eccetera, ma anche tipo appunto, oltre a lavorare, che cosa hai? Cioè, nel tuo quartiere ci sta, che ne so, un teatro, un luogo dove puoi andare a dei concerti, dei luoghi di aggregazione di qualità, come Senza anche tipo dello magari. sport, come anche appunto la qualsiasi, anche fossero semplicemente le attività commerciali, eccetera, cioè in maniera appunto sinergica col quartiere, cioè fosse quello, insomma staremmo a posto. Invece non è così, è nato un posto come Laboratorio Puzzle, che appunto è partito da semplicemente studentato occupato, in cui si denunciava la carenza di alloggi per gli studenti, persino per gli studenti aventi diritto con borsa di studio, che appunto rimanevano degli anni in graduatoria senza poter entrare mai in delle case che gli spettavano. E appunto, cioè, così è nato. Ora, da anni è diventato un laboratorio di welfare, appunto, cioè, quindi uscire dall'emergenza per vivere bene. Prima ne Questa era parlavamo l'idea. con Luca e dicevamo che il welfare state, tutta quanta quest'idea, che cosa fa Puzzle, Bada, no? Cioè questi progetti, questi lab, riescono, abbiamo detto, a far unire tutte le persone con qualsiasi diversità, con qualsiasi cosa che non ci piace o che non va. E a te piace questa idea, Luca? Perché? Sì, molto. Perché puoi fare un sacco di esperienze, puoi, ecco, stare con persone che ti insegnano molte cose belle, ecco. E tu nel tuo quartiere vorresti questo? Cioè che ci fosse un posto dove tu puoi andare come Brancaleone, come Puzzle, come tutte queste realtà sociali in cui tu puoi andare e sfruttare il tuo tempo in un'attività. Sì, mi piacerebbe. E come è nato? Appunto, cioè, come ti accennavo, è nato appunto da questa occupazione, è nata per questo motivo abitativo, e poi si è trasformata appunto adesso, cioè fino adesso si è trasformata in questo laboratorio di welfare, che ha persino ottenuto un riconoscimento della quale ci siamo tuttora dentro. Il processo, siamo entrati in un processo di bene comune. Che vuol dire bene comune? Bene comune è nato da, che ne so, dal modello Napoli, tipo, che ne so, Scugnizzo liberato, asilo, eccetera, eccetera. Quindi di un posto che viene liberato, nel nostro caso un edificio pubblico abbandonato, e riutilizzato dalla comunità per dei fini, appunto comunitari, e che ottiene la semplicemente non legalizzazione, ma come dire, un riconoscimento, quindi non una possibilità di continuare a svolgere l'attività, che viene rinnovato di 6 anni in 6 anni. Nel nostro caso è la stessa cosa, soltanto che invece che essere riconosciuto alla comunità, abbiamo dovuto fare un processo di abbiamo dovuto fare un patto di collaborazione col municipio, impegnandoci appunto a sottoscrivere le attività che facciamo, perché tutto quello che facciamo è alla luce del giorno, cioè l'assemblea di Puzzle è pubblica tutte le prime domeniche del mese, e appunto Come nel abbiamo patto detto di quel l'altra volta, possono partecipare tutte le persone, esatto, cioè tutte le non persone c'è possono un'assemblea partecipare, chiusa. e anzi appunto nel patto di collaborazione, diciamo, siamo riusciti ad ottenerlo proprio perché il municipio, invece di avere un diritto di veto, una posizione privilegiata all'interno di un'assemblea, ci sta semplicemente come garante dei processi democratici di Puzzle, quindi c'è, cioè, dell'assemblea. Quindi l'assemblea, nonostante fa capo a un'associazione che abbiamo dovuto fare per poter, diciamo, agire nella completa legalità, comunque persino questo direttivo di questa assemblea, scusa, di questa associazione, risponde direttamente a le delibere dell'assemblea stessa, quindi diciamo l'orizzontalità e il processo democratico sono del tutto garantiti al laboratorio Puzzle, e il municipio ne dovrebbe essere garante. Ok, Luca, tu che ne pensi di questo progetto? Anzi, di questi progetti di Bada, di Puzzle? Che Tra siano. l'altro, tu Puzzle hai anche visto? Che ci puoi dire che hai visto? Noi non ci siamo mai stati là a Puzzle. Tu che cosa hai visto a Puzzle? Allora, ma Puzzle ho visto alcuni laboratori. Tipo, che cosa facevano nella pratica proprio lui? Facevano lezioni di arte, facevano graffiti, perché ecco, appunto, io ho fatto con dei ragazzi del Totem, abbiamo fatto graffiti al Tufello e a Vigneulove da me, al terzo municipio. Insomma, abbiamo fatto questi graffiti che ci ha insegnato, ecco, appunto, lui. E ti è piaciuto? Lui chi? È Lucone, e mi ha fatto impazzire come cosa. Infatti, io l'ho fatto al Mooncraft, che sarebbe a Via Giulio Pasqua di 160, e io l'ho fatto praticamente là, l'ho E che cosa hai fatto. fatto quando hai fatto il graffito? Che hai disegnato? Ho fatto un gufetto, ma prima ho fatto un'intervista a loro facendogli delle domande. E senti un po', quindi là il contesto com'è? Cioè, a te piace? Possiamo dire che è simile al Branca oppure cambia? Cambia ogni tanto. Cambia ogni tanto perché ci sta varie persone, vari laboratori, come... Sì, ci sono anche altri laboratori. E per fare le magliette, noi vorremmo fare le magliette del Branca Leone e del Jolly Roger. E per fare le magliette, come hai realizzato questa cosa con Luca? Come l'avete pensata? Allora, praticamente io ho pensato di volevo fare dei graffiti sul muro, ma alla fine abbiamo cambiato idea, perché se tu fai graffiti ti beccano, insomma. E perciò abbiamo fatto sulle magliette, ho iniziato a fare questa idea. Stiamo progettando tranquillamente, ma adesso ci stiamo un attimo riflettendo, perché non è tanto facile fare certe cose. Ok, vuoi dire qualcos'altro? No, basta così. Ok, Rebel lo Music, musica di salutiamo Luca. pelle. Jedi Master Danno, Colle del Fomento. Dici che spari, ma ti spari solo nel blue steel. Rebel Music per il party, chiama Bobby Seale. Fan freak sopra il beat come Bushwick Bill. E da solo fumo più di tutti i Cypress Hill. Dici che spari, ma ti spari solo nel blue steel. Rebel Music per il party, chiama Bobby Seale. Fan freak sopra il beat come Bushwick Bill. E da solo fumo più di tutti i Cypress Hill. Metto alle corde, questa base morde, mena forte. Suona musica ribelle per voi, sono campane a morte. Jedi Master, fuori dalla gabbia. E breakdance fra le dune nel deserto sulla sabbia. Predone Tasken, chiamami Sabibotto. Mo, c'ho l'antidoto, il tuo finto rap ridicolo. Difendo il titolo da solo sul ring. E calo anonimo come gli anonimo sui Wu-Ming. Qui, chiunque pensa ad essere il king ha da dimostrarlo. Benny Blanco, ma sul palco pari Billy Ballo. Fra le corde luciador come il santo. Flippo solo hardcore, metto l'elmo, il mio nome e mando. Cazzate rima a parte, qui mo si parte. Rock marciano, figli di puttana, questa è arte. Questa è musica che parla, chi resta in disparte. Arde forte dentro il collo e ogni fire starte. Avant Jazz, Free Punk, come gli Zoo. King Kong, sopra il funk, per i figli del voodoo. Tu, sogna pure la tua villa Malibu. Ma quando suona questa musica, ribelle non ti salvi più. Dici che spari, ma ti spari solo nel blue steel. Rebel Music per il party, chiama Bobby Seale. Fan freak sopra il beat come Bushwick Bill. E da solo fumo più di tutti i Cypress Hill. Dici che spari, ma ti spari solo nel blue steel. Rebel Music per il party, chiama Bobby Seale. Fan freak sopra il beat come Bushwick Bill. E da solo fumo più di tutti i Cypress Hill. Musica ribelle suona senza click. Alla tua corte porto i freak. Spada laser verde, diglielo a tutti i tuoi sit. Non c'ho le hit, ma chiudo ad occhi chiusi trick. Chiamami Stick se ti bastono sopra il beat. Sirmene X, una Cadillac spaziale. Manco sai di cosa parlo, cercalo nel manuale. Giovane marmotta amatoriale. Rapper usa e getta in bella vista sopra lo scaffale. Gli dice male qua non c'è niente di vero. Torno al punto di partenza, armo il mio pensiero. Caricatore pieno, miro, dopo sparo a zero. tu te la prendi con la trap, io col mondo intero è ancora sclero, all'ombra di sto brutto impero, zero decoro sul mio muro scritto gloria al clero, barricadero, scoppio da una scintilla, questa è rebel music, sottofondo per la tua guerriglia, stai ma ti spari solo le blue steel, rebel music per il party chiamo Bobby Seal, fan freak sopra il beat come Bushwick Bill, e da solo fumo più di tutti sai che sì, mi ci spari ma ti spari solo le blue steel, rebel music per il party chiamo Bobby Seal, fan freak sopra il beat come Bushwick Bill, e da solo fumo più di tutti sai che sì, rebel music, musica di pelle, Jedi Master Danno, colle del fomento, Tommy Rebel. Sì, grazie mille Lugone di essere stato qui. Grazie a te, Lu. Puoi venire alla radio quando vuoi, un grande piacere, grazie Luca. Voi venite a Pazzo quando volete, lo sapete. Dopo aver salutato Luca, ecco a voi le offerte del Pewex. Coca-Cola da un litro a soli 1,90€. Biscotti di Vella con farina integrale a 2,80€. Cereali KitKat a 3,95€. Candeggina acida mezzo litro a 90€. Anelli di calamaro freschi italiani a soli 2,50€ al chilo. Pewex, Pewex, qualità più conveniente sempre. E adesso il nostro momento preferito, le battute. Vai Luca. Durante il mio soggiorno nel Sahara notai che il menù nei ristoranti era limitato. C'era solo il dessert. Il massimo dell'ecologia nel mondo animale, le marmotte catalitiche. Un signore si reca alla casa di un indovino, appena arriva la bussa alla porta, e l'indovino chiede chi è, e la signora esclama: cominciamo bene. Mio figlio ha 5 anni che suona il conversatorio, ma non gli hanno ancora aperto. E ecco a voi Alice, che oggi innanzitutto ci fa un saluto. Ciao a tutti. E ci parlerà di che cosa? La cura della persona crema naturale contro l'acne, l'aloe vera gel. L'aloe vera gel è un ottimo rimedio naturale per l'acne, poiché promuove l'attività e antinfiammatoria, revitalizzante e astringente della crema ai soggetti affetti da acne e tendono a graffiarsi la cute interessata a causa dello sfregamento, la pelle viene lacerata. Che vuol dire lacerata? Viene rovinata. Quindi, come stai dicendo tu, questa crema, diciamo, naturale può essere efficace per riuscire a rimarginare tutti quanti gli strati della pelle che vengono rovinati con l'acne, no? Giusto? Ah, ok, ho capito. Grazie, Elena. Vai! Una crema erboristica contro l'acne va spalmata sulla pelle pulita, possibilmente dopo un bagno caldo, perché... perché dopo il bagno caldo i pori si dilatano. Ah, ok. E quindi fanno sì che riescono appunto a far sì che la pelle sia dilatata, i pori si puliscono meglio facendo il lavaggio. Quindi, e appunto, cosa sono i pori proprio? I pori della pelle sono i buchetti che ci abbiamo quando ci abbiamo i brufoli, come hai detto tu l'altra volta, della crema, che bisogna farlo sempre a pelle pulita. Perché? Perché così l'aloe entra dentro i buchi della pelle e li pulisce. E li pulisci subito. Esatto. E praticamente questa crema che fa, questo rimedio naturale, che cosa fa? Prima dell'applicazione che dobbiamo fare? Del rimedio naturale è possibile eseguire dei bagni di vapore mettendo il viso davanti a recipiente contenente acqua precedentemente portata all'ebollizione. Quindi è importante che uno si metta sotto, cioè, appunto sotto l'acqua con bollente. L'acqua calda, mette una bella pentola, abbiamo detto anche prima, mette una bella pentola con l'acqua calda, la facciamo bollire e poi ci mettiamo il viso con sopra un asciugamano sul volto in modo tale che i pori si dilatano,

che non succeda più, che stiamo zitti a pranzo. Io da domani non piango, ti giuro no. Il sangue con il miele, ballato scalza tra le iene, per poi buttarmi giù, però dove eri tu? Sai, dopo la malinconia, inizia il mondo se vai via. Siamo in aria da ieri, ieri, ieri, ieri, ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri. Meglio adesso parliamo due lingue diverse davanti a un albergo. Cosa che ci ha fatto l'amore, cosa che ci ha fatto l'amore. Io da domani non piango, che non ti meriti altro, non mi meriti, no. Lo consiglio perché è molto buona questa crema. E in più è naturale. E in più è anche naturale. Ora Ali ci voleva anche dare delle informazioni per quanto riguarda appunto l'ATAC, perché Ali comunque ha questo sportello che ci dà tutte le notizie dell'ATAC, delle metro e insomma a Roma come vanno durante... Questo sportello che è rotto. Sì, allora vai Ali. Ah ok, ho capito. Mezzobillo storico e murale di zero calcare diventa green. Che quindi, vede. Esatto, praticamente possiamo dire che Alice oggi ci vuole dire che nella metro B un murales che appunto è stato fatto su zero calcare è diventato un murales green. Ciò significa che è una pittura ecologica che fa sì che, diciamo, la pittura stessa aiuta, diciamo, la natura senza inquinarla. Dopo 10 anni circa dalla sua realizzazione, Mammut diventa green, è stato trasformato in eco murales. Grazie al restauro con l'uso ecopitture fotocatalitiche e purificatrici di aria. Appunto, come dicevamo, questo murales... Questo murales è un po' lunghetto e un po' complicato da dire, vero? Esatto, c'ha delle parole un po' complicate che in realtà sono semplicissime, e questa vernice serve per pulire l'aria all'interno degli ambienti, e hanno trovato questa nuova soluzione. In più, appunto, a Rebibbia, nella metro, hanno realizzato e risistemato questo murales di zero calcare, quindi Alice oggi ce ne voleva dare, insomma, notizia. Vuoi salutare la radio, Ali? Fai un saluto. Ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata. Sono Matteo. Oggi parlo delle pitture gratinate. Parate. Oggi Matteo ci parla delle verdure gratinate. Parate, zucchine, melanzane e carote. Ok, come le facciamo? Mettiamo timo, okay, olio, sale,

ci abbiamo chiarito, vorrei non litigare mai. Buonanotte, un bacio amore mio, non sei mai pronti a un addio. Le tue parole sono missili, missili, e ne arrivano tantissimi, fortissimi, non litighiamo più. Buonanotte, un bacio amore mio, lo cancello, lo invio, non si fa pace con i missili, missili. So a memoria ogni tua forma, ti cerco nella folla, a cavalcare l'onda, c'è il rischio che ti prenda e ti travolga. Allora lasciami perdere che mi sono distratto, quante figure che ho fatto te le ricordi? Le notti che guidavi tu, che spavento quelle luci blu, l'ambulanza o la polizia, io nell'ansia la butto via. Io non sono mai stato abbastanza, con te che facevi la pazza, mi hai pure spaccato il display, chissà dove sei. Io ci sarò se tu vorrai, questa volta è fino all'infinito, ora che abbiamo chiarito, vorrei non litigare mai. Buonanotte, un bacio amore mio, non sei mai pronti a un addio, le tue parole sono missili, missili, e ne arrivano tantissimi, fortissimi, non litighiamo più. Tra noi per ritornare insieme mille volte, più di mille volte, mi puoi dire tutto quello che vuoi, le tue parole sono missili, missili, e ne arrivano tantissimi, fortissimi, non litighiamo più. Buonanotte, un bacio amore mio, lo cancello, lo invio, non si fa pace con i missili, missili, e ne arrivano tantissimi. L'estate arriva quando, quando mi rubi il cuore, mani in alto. Elettra, Elettra Lamborghini. Non credo al destino e neanche a un bandito, ma chi l'ha detto che tu stasera non mi farei cambiare idea? Poi fai Latin lover solo nelle storie. L'amore mi gusta ma non mi basta, caliente cicalatina, e la notte corre, caballero mettiti in fila, vamos alle ale. L'estate arriva quando, quando mi rubi il cuore, mani in alto. Puoi farmi vedere le stelle che vuoi, la festa comincia se arriviamo noi. Non serve fare il macio, macio, mi basta un altro bacio, bacio. Puoi farmi girare la testa se vuoi, oi oi oi. Tutta la sera gli occhi su di me, ti credi un pirata e lo vedo che hai gli occhi sul mio décolleté. E guai per te, e guai per te, se tu mi sfiori e ti innamori. E guai per te, e guai per te, se balliamo soli. Tu mi chiedi perché sei caliente cicalatina, e la notte corre, cavaliere. Mani in alto, puoi farmi vedere le stelle che vuoi. La festa comincia se arriviamo noi. Non serve fare il macio, macio, mi basta un altro bacio, bacio. Puoi farmi girare la testa se vuoi. Oi oi oi, oi oi oi. Ed ogni volta che mi trovo qui con te, mi fai sentire caldo quando mi rubi il cuore, mani in alto. Ed ogni volta che fare mani in alto. Puoi farmi vedere le stelle che vuoi. La festa comincia se arriviamo noi. Non serve fare il macio, macio. Mi basta un altro bacio, bacio. Puoi farmi girare la testa se vuoi. Oi, oi, oi. Del weekend oggi diciamo è stato molto caldo, ma non vi preoccupate perché Matteo ci ha detto prima che questa settimana sarà più fresca. Vai Matte, dici il weekend come va. Allora, Raparo dal sole e massima 28 gradi, massima 28 gradi. Allora, la massima è 28 gradi e la minima è 18 gradi. Ok, poi domenica mette nuvoloso, ma minima 23 gradi, ma minima 33 gradi. Ok, quindi comunque farà caldo ancora, sì. Vero Matte? State via una settimana di pioggia. No, sarà una settimana di pioggia, Matte? Sì, lunedì! Porca miseria! Quindi da lunedì piove, ok. E che altro ci vuoi raccontare? Che altro ci vuoi dire? Delle temperature. Ok, pure le temperature cambieranno? Cioè si abbasseranno un pochetto col fatto che piove? Sì. Dai, almeno quello, almeno inizia a fare fresco. Sì. Dai, Matte. Senti, ci vuoi parlare anche di altro? Oppure hai finito le tue rubriche? Delle partite. Vai, dici queste partite. Allora, Ida Matta giocano a San Nicola, okay. E Italia a Wembley. Ok, ci fai dei pronostici oppure ancora dici meglio di no? Sì, me faccio. E facci i pronostici, va? Faccio, Italia Matta vince l'Italia. Ok. Poi Italia vince l'Italia, Paolo. Ok, secondo Matteo vince l'Italia. Allora, come dice sempre Pietro, se per caso vi guadagnate qualche soldo con le scommesse di Matteo e i pronostici, venite al Branca e ci date un po' di soldi. Sì. Grazie, fai un saluto. Ciao! Eccoci qua col nostro Lucone che ora ci saluta. Ciao! Ok, oggi la rubrica di Lucone, come al solito, sono i detti romani e uno dei detti che ci piace tantissimo è homo de sostanza, homo de panza? Homo de sostanza. Ok, l'ho detta io. Adesso volevamo fare un'altra rubrica su Luca che faremo tutti i venerdì. Luca è molto, gli piace molto vedere gli artisti, le star e poi guardare di che squadra è, dove vivono. Quindi oggi Luca ci dirà molte star di che squadra sono. Allora, Luca, Vasco Rossi, di che squadra è? L'Inter. Le sa tutte. Zucchero? Milan. Bravo. E Venditti? Roma. Beh, se potremmo sbagliare. Ligabue? Inter, grande Luca che le sa tutte e ci fa un grande saluto alla radio. Ciao. Ci vediamo, ci sentiamo venerdì? Venerdì prossimo. Dai, e forza? Roma. Allora, abbiamo scelto di fare che al nostro Jolly Roger ogni tanto portiamo un argomento un po' bizzarro. Oggi, come argomento bizzarro, Luca ha pensato che potevamo portare che cosa? I gatti! I gatti! Vai, Luca! Alice. No, prima dici un attimino che gatto si tratta, perché è un gatto un po' particolare. Il Maine Coon Cusa. Il Maine Coon Cusa, che tipo di gatto è? Gatto dei record. Ha solo 9 mesi ed è già più lungo di un bimbo di 5 anni. Cusa è un vero Maine Coon da record. Aveva solo 3 mesi quando fu adottato da Chisley Hobbs nel luglio 2022. Ora è più lungo di un bimbo di 5 anni e pesa più di 9 kg. Mamma mia. Considerato che crescerà per altri 3 anni e mezzo, per molti è destinato a diventare il gatto più grande del mondo. Tanto che la proprietaria, che spende una fortuna per sfamarlo, sta già pensando di comprare una casa più grande. Ok, che ne pensi, Luca, di questo gatto? Penso che sia un gatto gigantesco con tanti muscoli. E a te piacciono i gatti? A me piacciono, sì. Ok, e un gatto del genere lo terresti a casa? Bella domanda, con 4 cani è meglio di no. Perché? Perché tu a casa c'hai animali? Sì. E che animali c'hai? Ho 4 cani. 4 cani? Di nome Golia, Fonzi, Romolo e Penny, che adesso i loro tre maschietti, insomma, danno fastidio a Penny e la inseguono dappertutto. Ok, e senti una cosa, un gatto del genere, tu hai detto prima, mentre parlavamo, che l'avresti tenuto a casa, ma secondo te coi cani andrebbe d'accordo? No, li direi proprio... Ok, allora vai con le domande ai tuoi amici. Aliciotta, ti piacciono i gatti? Sì. Lo terresti a casa con te? Sì, tantissimo. Ok, sembra quasi un peluche, Ali, enorme. Hai animali a casa? Allora, io ho un gatto di nome Riley e che fa Riley? Fa qualche cosa oppure sta sempre fermo, buono, poi tranquillo? Lei c'ha 4 anni, mm-hmm. Pesa 6 kg e mezzo, perché ne ha 4. Quando hanno 4 anni e senti un po', tu dici sempre che a Riley in genere ai gatti piace il pesce, invece una volta ci hai raccontato che a Riley gli piace tantissimo mangiare il pollo. Allora, a Riley piace un po' tutto, poco pesce, più carne. Vedi, è un gatto diciamo un po' strano, nel senso che è simpatico il fatto che gli piaccia più molta carne, la carne, molta che verdura, pesce. Con carne. C'è patè. Senti, e tenere un gatto in casa che significa? È impegnativo, Ali? È impegnativo tenere un gatto perché in casa. Perché? Che devi fare quando c'è un gatto dentro casa? Perché comunque devo pulire la lettiera, devo spazzolarla, devo spazzolarla, devo... Dici sempre che il sabato, ci racconti sempre che il sabato vai a comprare che cosa, Ali, per Riley? Poi il sabato devo sempre spazzolarla, ma devo anche, soprattutto devo aiutarla che quando, perché praticamente, cioè, allora mamma ha chiamato anche una signora, mm-hmm. Per fargli pulire casa la mattina. E che succede? Quando viene la mattina Riley, mamma la deve chiudere dentro lo sgabuzzino. Mamma, quando gli metto la lettiera, sbaglio sempre il posto dove metterla. Vabbè, quello può capitare, però la magari... Se metto la lettiera, metto la lettiera con il buco della lettiera dove lei deve entrare e magari... Però mamma la chiuderà dentro allo sgabuzzino, perché quando viene la signora può essere pure che la signora o c'ha paura, oppure semplicemente può essere pure che Riley si muove e la signora non può pulire, ok? Però lei effettivamente fa la pipì dentro allo sgabuzzino. A volte può capitare perché magari sta lì dentro, poi è ancora piccolina e quindi ci può succedere. Senti, ma tu che gli compri il sabato quando vai al supermercato? Scalette. Perché Alice va a comprare le cose e si prende cura del suo gatto. Io gli compro le scatolette che gli piacciono. E che ci consigli di scatolette? Allora, un po' di pesce. Allora, bello il gioco del mio gatto. Allora, come gatto mio e come razza del mio gatto, diciamo, lei prende proprio la cano, mm-hmm. Il monte. Sono tutte quante cose che appunto al gatto piacciono. E poi ci avevi detto tanto che gli piaceva il... Hai detto pure prima la carne. Tu mi hai detto una volta che gli prendevi sempre le scatoline di pollo. Poi gli piace anche il pollo tutto patè, fatto tutto squascioso. Ok, grazie mille Ali. E adesso passiamo con le stesse domande a Matteo. Vieni, Matte. Eccomi. Allora, vai Luca, gliele fai tu o gliele faccio io? Gliele faccio io. Vai. Matteo, ti piacciono i gatti? No. E perché non ti piacciono? Perché è molto paura. A me è molto paura. Matteo ha molto paura dei gatti e prima ci ha raccontato un episodio in cui è entrato dentro una casa che c'era un gatto. Chi era? Di Piero. A casa di Pietro. E che è successo? Di un po'. Allora, mettere in acqua, a me mettere vuolina, paccone il cacco. Allora, tu sei, Matteo prima ci ha raccontato che è entrato a casa di Pietro, e che è successo quando sei arrivato a casa di Pietro? Paura! C'aveva paura perché chi c'era? Il gatto! Un gatto e Pietro c'ha anche il? Il cane! Ok, però tu c'hai paura del gatto e che cosa ha fatto Pietro? Andato via! Ha mandato via il gatto perché sennò Matteo non voleva stare a casa di Pietro! Perché aveva paura. Ok, quindi Matteo ha paura dei gatti e quindi un gatto del genere lo vorresti a casa così grande? No! No! Ok, Matteo ci dice che assolutamente non vuole un gatto così grande in casa perché non gli piacciono i gatti. Ok, fate un saluto alla radio! Ciao! Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi e ci vediamo venerdì prossimo. Ci sentiamo venerdì prossimo. Vai Ali! Ciao a tutti, ci vediamo venerdì prossimo e buona visione per venerdì. Lugone, ci vuoi fare un saluto? Ciao! E anche Lugone ci saluta dalla nostra radio Jolly Roger, ascoltateci e soprattutto seguiteci sui social, Instagram e Facebook e sulla nostra pagina. Un po' di notte che non riesco a chiudere gli occhi dentro il letto da quando ti ho detto è solo sesso ma non so se mento è solo l'exo da. Dovrei prendere nota di tutto quello che dici. Un'incisione precisa, non mi diverto se no. Filtrare da quelle crepe per non rivedersi più. Esci dalla cassa passando dai fili. Baby uccidimi te ma non prima che scriva. Respiri piano per non far rumore. Il suono di cinque gocce che nel bicchiere cadono cinque gocce. Questa notte voglio stare da solo. Se sono io ma che i tuoi amici mi hanno io. Così dolce. Se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo. Così dolce come sei tu. Quando sono con te non lo so che cos'è, che cosa. Ma io mi innamoro e tu ti innamori. E dai tuoi occhi cadono cinque gocce. Questa notte voglio stare da solo. E non so se sono io ma tu i tuoi amici mi hanno io. Così dolce. Se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo.